Intanto da giugno Bologna sarà città 30, la delibera che abbiamo assunto oggi ci dà questo obiettivo, parte quindi tutto il percorso per i cartelli stradali, anche le aree pedonali nei quartieri, la modifica delle strade per la messa in sicurezza. 14 milioni di investimenti, come già abbiamo visto in Via Azzurra, dove ci sono stati incidenti gravi, o alla rotonda di Viale Cavina e Viale Roma. Dove è maggiore l'incidentalità, noi interverremo per mettere in sicurezza. Il nostro obiettivo è morti zero sulle strade e la qualità della vita dei cittadini. Non siamo i primi a farlo a livello europeo, non siamo la prima grande città italiana, questo è vero, ma abbiamo già importanti città nel mondo che l'hanno sperimentata, come Berlino e come Parigi, che sono oggi viste come un punto di riferimento. Non sono andate indietro nel tempo, non ci sono le carrozze dei cavalli al posto delle auto, ma ci sono cittadini che vivono e a volte sopravvivono grazie proprio alla limitazione della velocità. E poi un paese come la Spagna, che ha fatto una legge nazionale per far sì che tutte le aree urbane fossero a velocità a 30 km prevalente. Credo che questo governo e questo Parlamento debbano fare altrettanto in Italia. Bologna, prima città 30 in Italia, propone proprio questo: la sicurezza stradale e la qualità della vita. Non è soltanto la velocità che salva la vita delle persone. Dobbiamo anche fare i controlli, li stiamo organizzando, abbiamo già aumentato in questo mese, dobbiamo modificare lo spazio pubblico e dobbiamo fare tanta, tanta educazione alla guida sicura e alla sicurezza stradale. È quello che faremo con una campagna importante andando in tutte le scuole, andando nei nostri quartieri, dove discuteremo nell'assemblea del bilancio partecipativo il progetto della Città 30, coinvolgendo i sindacati, gli autisti degli autobus, i tassisti e tutti i cittadini dei vari quartieri della città. Quali sono gli interventi? Si parla di porte d'accesso sui perimetri delle zone, dossi, cioè immaginando un po' come cambierà la città, ci saranno più dossi, attraversamenti pedonali, come la immaginiamo? La città di Bologna cambierà per come l'abbiamo immaginata in questo nostro mandato. L'impronta verde e la Città 30 sono due progetti chiave, significa sei nuovi parchi che attraversino i quartieri, quindi l'idea che Bologna sia attraversabile a piedi, in bicicletta, stando anche nelle aree verdi, penso alla zona Fossole, già così, mi piacerebbe vedere più quartieri in questo modo, i nostri investimenti vanno in quella direzione. Vuol dire più strade scolastiche pedonali, ne abbiamo già realizzate due, sia al quartiere Navile che al quartiere Santo Stefano, aumenteranno. Vuol dire avere maggiori rallentatori, strade messe in sicurezza con anche l'uso delle tecnologie che limitano la velocità. Dove si va a fare la spesa, dove i bambini vanno a scuola, dove le persone escono di casa a piedi usando il trasporto pubblico, dobbiamo essere più sicuri. È anche una questione di autonomia e di libertà. I nostri figli, i nostri bambini possono avere la libertà di girare sicuri nei quartieri vicino a casa se sanno che la città garantisce loro che non ci sarà un'auto che li investe. Questo non significa discriminare chi guida un'auto, ma significa metterlo nelle condizioni di salvare la vita a se stesso e agli altri. Lei auspica un maggiore coinvolgimento insomma, anche da parte dei cittadini? Le persone sono fondamentali. Se vogliamo migliorare la qualità della vita nella nostra città, dal tema della sicurezza stradale al tema dei rifiuti, della pulizia, è fondamentale la collaborazione di tutti. Noi non possiamo mettere un vigile urbano accanto ad ogni cittadino. Servono i controlli, ma serve soprattutto l'educazione civica, la partecipazione. Per questo abbiamo fatto lo spazzino di quartiere, abbiamo fatto il poliziotto di comunità e adesso la Città 30. E portiamo tutto questo nella discussione, nelle assemblee che partono proprio questo mese in ogni quartiere.